9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Buongiorno cari ascoltatori, buon 4 di luglio, mercoledì 4 di luglio, per chi la pensa come me 4 di luglio è un giorno tra i più importanti in tutto l'anno, non solo perché è Santa Elisabetta del Portogallo ovviamente, ma perché è il giorno che ricorda l'indipendenza americana, e cioè tra tutte le rivoluzioni, per così dire, quella che a me è più cara, perché è una rivoluzione liberale che nasce contro le tasse di un impero, quello britannico, e che vede i rappresentanti delle 13 colonie prima respingere, secondo le procedure legalitarie, al Parlamento britannico, sostenendo il loro diritto a sottrarsi all'iniqua, unilaterale, asimmetrica totalità di tassazione dell'impero britannico, e poi però alla fine, quando l'impero britannico tenta di schiacciarli con le armi conquistano la libertà. E la libertà per il proprio diritto naturale conculcato è la grande via delle rivoluzioni liberali. Delle rivoluzioni liberali, questa come la gloriosa rivoluzione del 1688 in Gran Bretagna. Quelle che poi applicano la ghigliottina di massa, e cioè quelle giacobine, quelle leniniste, non fanno parte del bagaglio di chi vi parla dei liberali, ma quelle però che sempre vibrano nella costruzione di strumenti necessari ad affermare il diritto naturale che persiste a quello di ogni pretesa di un ordinamento che tende a travalicare, anche un ordinamento democratico, e soprattutto quando è tecnologicamente dotato di tutti gli strumenti per rendere la nostra vita come un fuoco verso il quale si indirizzano tutti gli sguardi di un panopticon di Bentham. Ecco, allora questo giorno va sempre ricordato, soprattutto quando noi siamo in un paese che è quello con il massimo record di spesa corrente pubblica, di pressione fiscale pubblica, e quando dovrebbe essere evidente, mi auguro ai più, non dico a tutti, che questo ha la responsabilità di chiusure di imprese in massa, di disoccupazione in massa, di il calo ulteriore di un output potenziale del nostro paese bassissimo rispetto a tutti gli altri concorrenti da 15 anni da prima dell'euro, e cioè un paese che più di tutti dovrebbe strapparsi le catene e riscoprirsi cittadino e non suddito. E sudditi si chiama il libro, infatti, che abbiamo dedicato alla rivoluzione americana che vorremmo costruire, noi che la pensiamo così, e che potete comprare, come vi ho già detto, su Amazon.it. Allora, in questo 4 di luglio affrontiamo, nell'attesa di sapere se abbiamo scoperto nel frattempo al CERN il bosone di Higgs, e quindi se il modello standard in fisica resta confermato, malgrado le sue evidenti difficoltà, oppure no. Oggi ci occupiamo, e temo che dovremo farlo più e più volte, delle reazioni ieri al primo incontro avviato dal governo sui tagli alla spesa pubblica. Sui tagli alla spesa pubblica faccio solo una brevissima premessa. Mi avete sempre sentito dire che io sono per l'abbattimento del debito pubblico con il patrimonio pubblico, non col patrimonio degli italiani, e non con gli avanzi primari che hanno ucciso in 20 anni il nostro paese, e sono poi per individuare 7-8 punti di PIL di spesa corrente da abbattere in maniera non recessiva in 3 anni, perché a parità di saldo, cioè in avanzo primario l'anno prossimo, noi li ritrocediamo per fare più crescita ai lavoratori e alle imprese. Io sono dell'idea che cose di questo genere sono così impegnative che vanno annunciate ex ante prima come obiettivi che si perseguono con tanto di misure quantitative, e va annunciato ex ante il trade-off, cioè lo scambio in vista del quale ha senso ed è giusto incidere in maniera non lineare, ma decidendo dove è meglio incidere. 7-8 punti di PIL sono 100 miliardi di euro sui 720 miliardi di spesa corrente. Se non si dichiara prima il disegno generale e non si fa capire quale sarà il criterio che si segue, e se non si annuncia prima con chiarezza a tutte le forze sociali, alle forze dell'impresa, a chi rappresenta i lavoratori, a chi non è rappresentato in nessuno dei campi, che lo si fa per più crescita, cioè per retrocedere ogni singolo euro di spesa a una volta raggiunto l'azzeramento del deficit in meno tasse, temo che si ottenga l'effetto che ciascuno, ogni capitolo si separa, non si sa a quanto ogni capitolo debba concorrere e con che proporzione al resto, a nessuno è chiaro in cambio di che cosa, l'effetto è che tutti punteranno i piedi e dopo 3 mesi di sfibranti opposizioni e molto probabilmente la spinta vitale, lo slancio di questo capitolo verrà meno come sempre capita in Italia. Per questo io sono molto molto molto preoccupato, perché tra l'incerto avvio delle dismissioni pubbliche, che messe in CDP non sono dismissioni, e una maniera di intraprendere il cammino dei tagli della spesa senza dichiarare che per meno tasse al lavoro e all'impresa, senza dare un equilibrio generale quantitativo di chi deve concorrere per cosa, e questo aiuterebbe a capire allora se ha senso tagliare questo o quel capitolo eccetera eccetera, inizia sui giornali quello che è inevitabile. Voi avete ieri e oggi, ci sono dai 4 alle 6 pagine su ogni quotidiano di numeri affastellati in cui si dice statali via il 10%, dirigenti meno 20%, concorsi sospesi fino al 2016, polizia, operativi gli under 32, ferie obbligate, uffici chiusi, farmacie, sconto sui medicinali, fondo sanitario meno 3 miliardi. Ormai tutti sono presi da questa idea di fare le guide, i giornali, le guide a 60 pagine o a 6 pagine di cose casualmente incolonnate non fanno capire niente. Questa è la mia idea, cioè qual è l'equilibrio tra le diverse voci della spesa pubblica che devono concorrere a un obiettivo noto ex ante? Lo sappiamo? No, non lo sappiamo. C'era stato detto che servivano per evitare gli aumenti dell'IVA quest'anno e poi per il 2014. Leggo poi sui giornali che il mio amico vero, nel senso che ho una stima profondissima di Enrico Bondi per quello che ha fatto nel settore privato, gruppi come Mount Edison prima, Telecom poi, Parma ancora, sedendosi ieri nell'incontro che si è tenuto con le parti sociali, ha detto: io ho esaminato intanto 60 miliardi di euro e di quei 60 miliardi di euro posso dire che se è corretto quello che leggo sul Corriere della Sera, che diciamo se potrebbero fare a meno del 60%, che mi pare una buona percentuale a dire la verità. Ecco, però può essere mai che si dice ne ho visti 60 e intanto di quelli 60%, se sono casualmente quelli in cui si concentrano tutte le cose tagliabili o meno? Insomma, il metodo a me non convince. Ovviamente io sono per i tagli, se però servono a fare la crescita e meno tasse, se servono a mettere tutto nella pancia dello Stato perché ancora non sta dietro, avendo fatto diminuire ulteriormente il PIL con le sue più tasse, allora devo dirvi la verità, inizio a non capirci più niente. Ma fine della mia premessa. Adesso abbiamo inizialmente il segretario generale della UIL, che ieri era seduto al tavolo a Palazzo Chigi durante l'incontro, quindi ci dirà che cosa davvero gli hanno detto, che cosa hanno capito loro, quale sarà l'iter, se riusciremo a capire i diversi comparti, se c'è una logica entro la quale ciascuno deve concorrere per X a un obiettivo che è chiaro al governo di raggiungere, oppure se si riuscirà a fare solo laddove ci saranno meno dissensi, che mi sembra il vero rischio. Allora, buongiorno e grazie a Luigi Angeletti. Come è andata ieri in realtà? Innanzitutto un raccontino per far capire, dai giornali non è molto chiaro. Il raccontino è molto semplice. Il governo ci ha spiegato che intendeva tagliare la spesa pubblica di una entità non determinata per rinviare l'aumento dell'IVA al 2013, rinviare, non eliminare, per risolvere il problema degli esodati e anche la questione derivante dalle spese improvvise che ci sono determinate dalla sciagura del terremoto. E questi tagli, quindi se capisco bene, la dichiarazione del governo è: ci servono dei tagli, non abbiamo ancora capito quanti, ma per reperire nuove risorse, non per destinarle a fare crescita con lavoro. Quella sarebbe stata la nostra rivendicazione, per la quale abbiamo fatto addirittura una manifestazione. Ovviamente come ci è stato illustrato rapidissimamente in questo modo. Bondi ha fatto un'illustrazione razionale, ha detto: per quanto riguarda il mio compito, che è quello di ridurre la spesa per l'acquisto di beni e servizi da parte dello Stato in senso lato, noi opereremo in questo modo. ci sono dei criteri standard, i costi standard, tutti i contratti che cederanno questi costi saranno rivisti, e se saranno, e se l'eccedenza è assolutamente patologica e comunque straordinaria, i contratti verranno rescissi. La questione relativa al pubblico impiego è stata illustrata in questo modo. Intendiamo ridurre le piante organiche, che sono, diciamo così, il modo con il quale si disegna la quantità di persone che si impiegano negli uffici, in vari enti e amministrazioni pubbliche, del 10% per quanto riguarda gli impiegati e del 20% per quanto riguarda i dirigenti di prima e di seconda fascia. A queste persone ci sono due soluzioni. La prima è non applicare la riforma delle pensioni e quindi mandarli in pensione con le vecchie regole, quelle prima della riforma Fornero, e oppure metterli in mobilità secondo la legge che attualmente è in vigore. Come vede, c'è stato illustrato uno schema che, mentre sulla questione dei tagli o delle riduzioni dei costi delle forniture è un discorso assolutamente razionale, nel senso che si analizzano i singoli contratti e si verifica quanto essi siano congrui o meno. Per quanto riguarda la vicenda degli statali, si è usata quelli che si chiamano i tagli lineari, no? Adesso sì, usare una battuta, una decimazione, perché alla conservazione abbiamo detto, ma dove, con quali criteri? Non è che tutte le amministrazioni sono uguali, il rapporto tra dirigente e impiegato non sono uguali in tutte le amministrazioni, ci sono casi normali, 1 a 50, casi meno normali come 1 a 10, quindi c'è da fare una selezione, da affrontare e discutere la ragione, la razionalità, il benchmark che si usa per riorganizzare le amministrazioni, e noi vorremmo poter discutere. Ovviamente questo ci è stato detto, no, non c'è nulla da discutere, non ci saranno un altro appuntamento, una trattativa, un confronto su come, quando e a chi tocca e perché. Da quello che il governo dichiara, la linea di contenimento, anzi di fare a meno come obiettivo del 10% del totale degli statali, si intende al totale dei dipendenti pubblici o solo nei dipendenti pubblici, a quelli centrali, ministeri? Non è stato fatto nessuna, è stato detto in genere dipendenti pubblici. Quindi, arrivando al paradosso, che ovviamente si può interpretare come, siccome gli ospedali sono dipendenti pubblici, almeno gli ospedali pubblici, e i medici sono dei dirigenti, si può prevedere che ci sia un taglio del 20% dei medici, cosa che ovviamente paralizzerebbe all'istante i nostri ospedali, oppure, siccome per esempio uno dei grandi centri dal punto di vista quantitativo di dipendenti pubblici della scuola, anche lì avrebbe lo stesso effetto. C'è stata un'assoluta e secondo me dichiarata indeterminatezza, malgrado ovviamente le nostre controdeduzioni o le nostre domande, e questo ha reso questo confronto francamente inaccettabile, perché è evidente che il governo ha semplicemente cercato di fare un effetto annuncio, di cui posso intuire forse qual era il fine, fuori dai nostri confini, ma del tutto inaccettabile per quanto riguarda una vera capacità di governo. Italia ha la spesa pubblica, tutti i cittadini italiani, sindacati compresi, sanno che sono necessari. Magari soprattutto per fare quello che prima lei diceva, cioè per far sì che questi risparmi, queste risorse possano essere ridestinate ai lavoratori sotto forma di riduzione delle tasse sul lavoro e quindi dare una spinta per la crescita e per l'occupazione. Ma fare una cosa del genere significa non usare l'accetta, usare il bisturi, che come noto è uno strumento per usare il quale occorre una certa professionalità, una certa competenza e anche una certa abilità. Molto più semplice usare l'accetta, ma come è noto, quando si potano gli alberi si usano le forbici, perché se si usasse l'accetta probabilmente molti di quegli alberi si seccherebbero. Anche perché poi mi sembra che negli anni precedenti avevamo accumulato tante fondate polemiche contro il meccanismo del tagliare linearmente dove si poteva, che dovrebbe essere chiaro che è un sistema che non ci ha portato molto lontano. No? Ovviamente, anche perché si fanno i tagli lineari? Perché si è nella impossibilità politica di scegliere, di selezionare. E scegliere è un'arte difficile, ma è l'arte della politica, cioè quella di appunto di selezionare le cose che possono essere ridotte e quelle che invece non devono essere ridotte ma anche potenziate. Nei comparti diversi, cioè nella sanità, nella giustizia, eccetera, eccetera, nei diversi comparti in cui si articola l'offerta dei servizi più o meno essenziali della pubblica amministrazione, ieri non è stato proprio possibile, non c'era tempo perché il governo vi abbia detto alcunché, da quello che capisco? No, non ci ha detto assolutamente nulla, ha detto esattamente quello che avevo prima riferito. In aggiunta, ma noi abbiamo chiesto, ma a un certo punto, bene, ci sarà un altro appuntamento dove noi potremo discutere appunto di quali comparti, i diversi obiettivi che si pongono nei diversi comparti e soprattutto, come dire, tutta la pubblica amministrazione soffre di certi problemi, no? Mm-hmm. Non ci saremmo aspettati che cosa? Che il governo avesse detto, sapete che cosa c'è? Una cosa importante è il fatto che in alcuni comparti il numero di dipendenti è eccessivo, in altri carente, e quindi adesso siamo disposti e vi invitiamo a discutere di come si realizza una mobilità, discutendo appunto di professionalità, possibilità, tutto ciò che normalmente avviene quando si riorganizza un'impresa. E non vi hanno risposto nemmeno sul prossimo appuntamento, quindi a questo punto che fate? No, assolutamente. A questo punto fate come tutti noi, leggerete i giornali e deciderete come comportarvi, non lo so. Esattamente. Poi l'ultimo punto che secondo me una rilevanza politica importante riguarda quello che noi consideriamo come dei tagli ai costi della politica. Anche lì c'è stato annunciato che ci sarebbe stato un accorpamento di province, quindi una parziale eliminazione. C'è un intervento sui consigli di amministrazione delle società pubbliche o controllate pubblicamente, cose ovviamente assolutamente positive e addirittura necessarie, ma per esempio quando noi abbiamo chiesto perché non rendete obbligatorio l'accorpamento di tutte quelle migliaia di società pubbliche che solo perché esistono in quel numero producono una perdita di risorse, se non altro per una riduzione dell'effetto, diciamo così, delle sinergie e dell'effetto della scala, no? Su cui si riferiscono in termini di servizi ai cittadini, a quante migliaia di cittadini si possono offrire questi servizi. Hanno detto, bene, questo è un buon consiglio, non sappiamo se saremo in grado di seguirlo. Va bene, mi pare di capire, Angeletti, che ci risentiamo presto e vediamo un po' che piega prende tutto questo, perché i buoni consigli che non si è in grado di seguire sono una cosa che veramente... Grazie al segretario della UIL. Allora, vivo disappunto e molti ascoltatori, alcuni naturalmente propendono per il partito dei muscolari, del tifo muscolare, naturalmente partono le osservazioni sul fatto che sarei nostalgico di Berlusconi. No, sottolineo 77 volte no, non mi interessa poi dover tornare ogni giorno su questa cosa del tifo muscolare. Il problema non è, come sempre, dire ma perché era meglio quello che c'era prima? Io lavoro perché vi sia chiaro che c'è chi ha obiettivi precisi e quando si hanno obiettivi tanto incisivi obiettivi da perseguire in Italia o li si sa perseguire con il giusto metodo o li si manda in vacca. E si impedirà poi a chi è più deciso perché studia da più tempo, ad affrontare il problema di come abbattere il debito pubblico in maniera non recessiva e come trovare nel conto economico pubblico molte risorse da retrocedere però in meno tasse, non da sfamare in nuove spese dello Stato. Se non lo farà nel giusto metodo, impedirà anche a chi verrà dopo di poterlo fare. Questo è il rischio nel quale siamo oggi, per come si è messo mano la settimana scorsa alle finte dismissioni pubbliche, sottolineo finte perché con GDP non si dismette niente, e se si comincia tagli di entità non dichiarata, noi non conosciamo l'ammontare complessivo dell'obiettivo del governo, conosciamo capitoli successivi che dipendono da quali sono stati quelli che hanno esaminato nell'ultimo mese da che hanno affidato gli incarichi di questa roba qua, capite? Allora, se non conosciamo ex ante qual è l'obiettivo e quale deve essere quindi il peso per le diverse voci con cui concorrono a realizzare questo obiettivo, e se per di più ci si dice che tutto quello che salta fuori è per coprire comunque spesa e non per fare più crescita attraverso meno tasse, ecco che questo è il fondo della mia critica. Il che non significa dire che non ci sono tagli da fare, visto come l'ho sentito dire incessantemente, ma se voi cominciate dicendo totale dipendenti pubblici 10% in meno e 20% in meno dirigenti e non fate nemmeno una dichiarazione in cui si capisca è il totale del comparto, tutti i dipendenti pubblici, enti controllati compresi, in quel caso siamo non 3 milioni e 4 ma arriviamo fino a 4 milioni e rotto, oppure no, non è questo, è l'aggregato dei dipendenti centrali dello Stato e non delle autonomie. Se non chiarite nulla di tutto questo, perdonatemi, non pretendete che io batta le mani, perché ci tengo troppo a queste cose, sono troppo convinto che questa sia la via d'uscita che l'Italia deve perseguire per i propri errori negli ultimi 20 anni e per evitare di finire sotto schiaffo comunque sui mercati, per non fare il mio mestiere, che è quello di far capire attraverso voci altrui, non solo la mia, che sono un cretino qua pro tempore ancora per poco, ma di farvi capire che ci sono tante cose che non funzionano, e quindi inutile dividersi nel solito coro chi è a favore e chi è contro per ragioni superiori, perché non lo so, se non l'avete capito dopo tanti anni dove ci ha portato sto bel coro, cerchiamo di capire nel merito. Allora, un altro ospite, ieri c'era anche lui alla riunione con il governo, in cui il governo ha esposto, abbiamo sentito Luigi Angeletti come dal suo punto di vista gli obiettivi che sta perseguendo, e in questo caso è con noi il sindaco di Venezia, che si chiama Giorgio Orsoni, ve lo ricordo, è componente della delegazione ANCI, che ieri era a Palazzo Chigi. Grazie al sindaco di Venezia, Orsoni, buongiorno. Buongiorno, allora, a lei. Per quello invece che riguarda voi, quindi le autonomie e in particolare i comuni, il governo, che cosa, quale punto preciso o quale numero preciso ha pronunciato ieri a Palazzo Chigi, facendovi capire cosa e che cosa ulteriormente, in cosa consisterà il percorso a due tra autonomie e governo? Credo che proprio questo sia l'aspetto che ha lasciato più perplessi, cioè che il governo non ci ha fatto nessun punto preciso, ci ha detto che deve recuperare 4 miliardi e 2 nell'ipotesi in cui non si applichi l'aumento dell'IVA, e poi devono essere recuperati degli altri fondi per i cosiddetti esodati e per i terremotati. Ma nonostante siamo stati 2 ore lì a dialogare, non è mai venuto fuori nessun numero, e soprattutto poi non è venuto fuori nessun criterio con cui si applicare queste come dire, economie che il governo dice di voler fare. Quindi niente di niente, né tavoli specifici niente. In cui vi verranno detti? No, niente di niente, anzi il Presidente del Consiglio ha detto in maniera molto chiara che non ci saranno altri incontri e che su questo tema, e che dovremo aspettare il provvedimento che uscirà, si presume, venerdì. Quindi diciamo è stato un incontro, per carità, parlare con il Governo, il Presidente del Consiglio è sempre importante, però debbo essere molto sincero, è stato un incontro assolutamente inutile. Allora, io ringrazio intanto il sindaco di Venezia, dai giornali, signor sindaco, se ho capito bene, non mi sono perso qualcosa, io capisco comunque che sono in arrivo importanti interventi che riguardano miliardi dalla sanità e quindi che inevitabilmente avranno a che fare con la voce che è il 75% delle regioni. Poi ho capito che il governo intende accelerare, l'aveva già fatto capire sulla linea del Salva Italia dell'anno scorso, sulle province. Direttamente per i comuni non ci dovrebbe essere, da quello che ho capito, niente, o sbaglio, Orsone? Questo direi che è l'unico aspetto positivo che è emerso da quell'incontro, e cioè mi sembra una determinazione, una forte determinazione da parte del governo di andare avanti con la riforma istituzionale che riguarda non solo le province ma riguarda le città metropolitane e soprattutto i piccoli comuni, cioè i meccanismi di accorpamento e di facilitazione delle unioni dei piccoli comuni. Questo è certamente un aspetto rilevantissimo che potrebbe portare a dei forti risparmi, ma soprattutto può portare ad un nuovo assetto istituzionale molto più snello e molto più confacente a delle esigenze di uno Stato moderno. E infatti anche su questo non si può che concordare col sindaco di Venezia, e d'accordo anche col sindaco di Venezia, lo ridisturberemo quando avremo capito meglio. Intanto grazie di averci dato questa testimonianza diretta di come sono andate le cose ieri. Un altro ospite è con noi, l'assessore alle politiche sanitarie della regione Veneto, Luca Coletto, e all'assessore Veneto Coletto chiedo, per la parte di sanità, per quello che si è capito e per le misure complessive e per l'impatto che hanno sulle regioni e sulle autonomie, voi che impressione avete? Coletto, prego, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma l'impressione è un'impressione che tiri aria pesantissima, nel senso che con il patto della salute in corso, questo era l'ultimo anno appunto, non erano previsti tagli. Peraltro noi avevamo concordato fra regioni il riparto sulla base di 106 miliardi nel febbraio di quest'anno. Come tutti sanno, il MEF, il Ministero dell'Economia e Finanze, non ha mai convocato il tavolo Stato-Regioni, non si è presentato per tre volte, proprio perché erano nell'aria questi tagli. Sembrava fosse un miliardo e mezzo a livello nazionale, pare, ma non abbiamo assolutamente numeri, che si aggiri invece tra i 2 e i 3 miliardi. Oggi lo sapremo perché avremo un incontro con il ministro Balduzzi. Oltre alla riduzione dei contratti, anche in essere da quello che è stato riferito delle parole di Bondi ieri, che riguardano le forniture sanitarie secondo metodologia di costi standard, nella sanità si tratta, da quello che avete capito, assessore Coletto, di un'anticipazione di introduzione di criteri standard di convergenza secondo livelli di efficienza per il minor costo, sia efficienza che minor costo comparato, oppure anche in sanità siamo in presenza, come nel pubblico impiego, in cui non sono stati fatti numeri e si è deciso solo, si è dato solo un'indicazione di massima, a prescindere dai problemi dei diversi comparti, di interventi di tipo lineare, da quello che voi avete capito, Coletto? Ma guardi, da quello che ho capito io personalmente, credo che si parli sia di uno che dell'altro. Nel senso che per ora quello che viene paventato e che si capisce sono interventi assolutamente lineari, che fanno male a tutti. Nel senso, io l'ho detto più volte, l'ho detto anche al ministro Balduzzi, sarebbe opportuno definire dei criteri standard per poi applicare i costi standard. Criteri standard, mi spiego velocemente, definire degli ambiti uguali per tutti, degli ambiti omogenei, ad esempio un ospedale provinciale che abbia un bacino di 1 milione di abitanti, un ospedale di rete che abbia un bacino ben definito, in maniera tale che le strutture ospedaliere siano omogenee in tutta Italia. Rendendole omogenee, avendo dei criteri quindi standard, potremmo applicare anche i costi standard. Partire per definire una strategia strutturale, allora sì che successivamente si possono applicare delle strategie di tagli orizzontali, potrebbero essere compatibili, ma così applicando strategie di tagli orizzontali paga sempre di più chi ha già razionalizzato, chi ha già messo in essere delle situazioni virtuose. costa meno a chi invece deve ancora razionalizzare, deve mettere in atto ancora le situazioni virtuose. Quindi sarebbe opportuno partire prima con i criteri standard, applicando i costi standard, e poi eventualmente io direi che se partissimo già con queste premesse sarebbero quasi inutili i tagli orizzontali, perché si ridimensionerebbe la spesa automaticamente. Due domande all'assessore alla sanità del Veneto per farci capire meglio. Ipotizziamo che abbia ragione Repubblica, che oggi nella pagina che dedica ai tagli alla sanità, su due dei quattro capitoli, una è la spesa farmaceutica, l'altra è forniture e servizi, l'abbiamo vista, poi ci sono altri due capitoli che sono il fondo sanitario e poi i posti letto. Sul fondo sanitario ipotizziamo che abbia ragione Repubblica, che dice ci sono 3 miliardi di tagli al Fondo Sanitario Nazionale, tra uno nel 2012, che quindi vale doppio, e quindi due nel 2013, perché se vale nel 2012 è per sei mesi, quindi va raddoppiato, quindi sono 3 miliardi di tagli. E poi nel posti letto propone come criterio del taglio quello di passare da 4,2 posti letto per 1000 abitanti oggi a 3,7 dopo i tagli, quindi chiusura di innanzitutto tutti quelli di meno di 80 posti letto, e quindi diverse, molte decine di piccolissimi ospedali, e poi indicazione del criterio da adottare in tutte le regioni. Ecco, se fossero vere queste due anticipazioni, saremmo in presenza di misure che penalizzano senza premiare chi è capace di fare migliori bilanci con più qualità, oppure invece questo rischio c'è nei tagli lineari del fondo sanitario e non c'è invece nell'indicazione di un criterio di questo tipo per i tagli nei posti degli ospedali? Guardi, io sono convinto che per quanto riguarda il taglio dei posti letto, partire dal 4,2 per arrivare al 3,7 possa essere una misura assolutamente compatibile, va a tirar via i piccoli ospedali, che evidentemente poi vanno fatte le valutazioni territorio per territorio, perché evidentemente la densità abitativa, le situazioni emergenziali vanno gestite. Certo è che nello standard, nella massa, queste situazioni non ci devono più essere. Le regioni virtuose sono già arrivate al 3,7, anzi sono già più basse rispetto al 3,7, quindi sarebbe auspicabile che venissero applicato come criterio standard a livello nazionale. Quello che mi preoccupa molto di più sono i tagli orizzontali, che quelli li pagano tutti, ripeto, come ho detto poc'anzi, anche chi ha già razionalizzato, chi ha già messo in atto delle misure preventive virtuose per finalizzate non tanto, come dire, al taglio dei servizi, ma al miglioramento dei servizi, con un'attenzione particolare dal punto di vista economico. Si può fare, si deve fare, questo è un obiettivo assolutamente raggiungibile, però ci vogliono dei criteri anche in Italia. Il taglio orizzontale non paga nessuno. Va bene, allora grazie anche al tassello che ci ha aggiunto l'assessore alle politiche sanitarie della Regione Veneto, Luca Coletto. Sentiamo rapidamente Francesco da Roma. Prego Francesco. Pronto, buongiorno. Senta, la mia riflessione voleva essere questa. Innanzitutto si fanno continuamente tagli, non si sa bene mirati a che cosa. D'altra parte si parla di crescita, abbiamo produzioni che vanno tutte quante fuori, non facciamo più nulla. Ci sta un articolo interessantissimo del professor Sartori sul Corriere della Sera, nel quale diceva: questa globalizzazione fatta in questo modo, senza introdurre una sorta di scudo a livello europeo che deve essere fatto, non può soltanto distruggere progressivamente quella che è la civiltà europea. E un'altra riflessione ancora: tagli alla sanità ulteriori. Ma io dico, con quale legittimità da un punto di vista della delega, perché qua ovviamente nessuno ha delegato questo governo a fare ciò. I programmi dei politici, quelli che decantavano facciamo questo, facciamo quell'altro, ci atteniamo al programma prima di essere eletti e che dopo vado a mettere in atto azioni di questo tipo. Medici pagati 1.000 euro al mese, gente di 40 anni con esperienza di 15 anni, 20 anni di professione, e poi andiamo a vedere mega stipendi di mega manager, 20, 30, 40 milioni di euro, 1.500.000 euro. Ma dove vogliamo andare? Allora, Francesco, lasciami dire che il problema è che sulle forniture dei servizi sanitari e tutta la pubblica amministrazione c'è come, ci sono punti di PIL da recuperare, di spesa che non è fatta con l'esempio di buttare fuori la gente o dei 1000 euro ai medici. Quanto poi a tutti gli altri dirigenti pubblici che stanno impugnando le norme, hanno impugnato a decine di TAR, naturalmente un'espressione ultronea, mi perdonerete, ma hanno impugnato ai TAR le norme che gli hanno messo limiti ai tetti a 90.000 euro, a 100.000 euro negli ultimi 2 anni. Io la penso come te, però vedrai che non mancheranno sentenze della magistratura, temo, che diranno che gli interventi selettivi di imposizione dei limiti alle retribuzioni pubbliche sono incostituzionali, e alla fine, sai, è così che poi si costruisce il consenso nella pubblica amministrazione ai mega compensi dei manager apicali che guadagnano 3-4 volte quello che i loro corrispondenti guadagnano negli Stati Uniti, dove amministrano cose 3-4 volte più importanti come numero di abitanti, visto che noi siamo 60 milioni e sono 240. E quindi io sono per tagli molto decisi, 7-8 punti di PIL, ma dichiarerei prima dove, come e perché, con quale criterio e per meno tasse. Così ci credo molto poco, mi sento in difficoltà perché poi molti di voi oramai vedo che c'è proprio una cosa crescente, c'è chi pensa che io faccio propaganda per avere appelli per restare qua, ma voi siete fuori di testa, ragazzi, cioè. No, per carità, d'ora in poi starò zitto su questo argomento, perché ho capito che c'è proprio un fastidio crescente del pubblico Radio 24, e questo mi dispiace molto, perché dopo questi anni passati qui credevo di essere entrato in qualche misura in onda con il pubblico, nel legittimo diritto di tutti, di tanti. C'è gente che scrive ogni giorno dicendo, c'è uno che si chiama Marco che ogni giorno si sveglia la mattina e insulta il direttore di Radio 24 perché non mi ha ancora cacciato e così, ma queste sono cose logiche, ovvio che capitano quando ti metti in pubblico. Ma adesso vedo proprio che c'è una cosa per cui dire pro tempore vi dà fastidio. E non lo dirò più, perfetto. Allora, eccoci qua in questo inizio di questa iniziale puntata su tagli alla spesa pubblica. Molte ne faremo, avete visto molte percentuali lineari: 10% dipendenti, 20% dei dirigenti, 20% delle forniture. Vedremo. Non voglio sembrare troppo critico, e sentiamo che ne pensa Giulia da Milano. Sì, dottor Giannino, buongiorno a tutti, sarà veloce. Allora, qui purtroppo in Italia siamo in una situazione in cui, come si dice, i nodi vengono al pettine. Allora, questo governo per che cosa è stato messo lì? Per fare quello che tutti in 40 anni non sono riusciti a fare e a modificare, perché lo slogan di tutte le campagne elettorali è cambiamo l'Italia, poi come uno cerca di fare qualcosa è subito bloccato. Allora, è chiaro che è una situazione che non piace a nessuno, però se non si fa questo, dove andremo a finire? A un certo punto i dipendenti pubblici devono capire, e qui il messaggio è sbagliato secondo me, la comunicazione è sbagliata, perché si sta cercando di dire che per aiutare gli esodati, i terremotati, per non aumentare l'IVA verranno sacrificati loro. No, non è solo per questo, anzi non per questo, indipendentemente da questo. Bisogna riformare l'amministrazione pubblica che per 40 anni ha elargito. Giulia, però aspetta, io adesso ti interrompo, perché il problema è che invece è proprio quello che il governo ha detto. E non è che dice c'è un errore di comunicazione. Il governo questi tagli indica e dice che all'inizio ha detto che erano per 5 miliardi, cioè lo 0,57% della spesa corrente. Poi dice possono essere fino a 30, che capisci che è un'altra orbita di grandezza. Dopodiché dichiara che servono per evitare l'IVA e per gli esodati. Invece è proprio quello che dichiara lui. E io su quello che non sono d'accordo. Oggi vedo per esempio il giornale che trionfalmente dice bravo Monti, vai avanti e soprattutto non dire niente, perché questa è l'unica maniera per fare i tagli. Io sono convinto di una bella cosa e credo di essere liberale in questo. Se io dico per far ricrescere il paese ci vogliono molte meno tasse, ci vogliono 8 punti di spesa pubblica in meno, per questo devo dirlo prima al paese con grande chiarezza e far capire a tutti che dove taglierò in maniera non lineare e anche molto profonda, come sulle forniture e anche sulle piante organiche, ma c'è tanto da tagliare prima delle piante organiche. Ma in cambio devo dire con chiarezza agli italiani, sia a quelli che sto toccando sia a tutti gli altri, che in cambio io gli do meno tasse e più crescita. Chi non lo fa così Mi dispiace per i miei colleghi, i miei amici liberali del giornale, che credono che invece lo si faccia nottetempo tagliando e senza dirlo niente a nessuno, si illude, racconta palle per fare qualche copia in più. L'Italia, facendo le cose senza dichiararle, è andata dove è andata, a deragliare e a fottere me e voi tutti nelle tasche, giorno per giorno di più. Fine della puntata, e spero di non dover alzare più la voce presto. A domani.